Ben ritrovato Daniele Parisi. Come va? Dal teatro della dodicesima, dove abbiamo fatto le prove insieme a questo straordinario e meraviglioso tecnico che è Ettore Bianco, che saluta, Buonasera. Allora, con Daniele per parlare della prima nazionale del nuovo spettacolo EUOE, che sarà al Teatro Vascello domenica 25 febbraio. Allora, Daniele, che cos'è? Allora, è innanzitutto uno spettacolo, è il mio quinto one-man show, possiamo dire così, ed è un pochino diverso rispetto agli altri, nel senso che a differenza degli altri spettacoli in cui c'è diciamo, un approccio molto scanzonato, stavolta ci sono due anime diverse che in qualche modo convivono, o meglio provano a convivere, quindi c'è spazio anche un po' per la malinconia, diciamo così, ecco. Io volevo, tra l'altro, colgo l'occasione perché volevo ringraziare due persone in particolar modo che sono che tu conosci, che sono Gioia Salvatori Sì. e Ariele Vincenti, che è un attore bravissimo, che mi stanno dando una mano dal punto di vista sia registico che drammaturgico. Stiamo facendo un lavoro duro e diverso rispetto al solito, quindi insomma sono molto contento. Allora, è tutto all'interno del progetto Filetti di Sgombro. Allora ti chiedo, andando indietro, facendo un salto indietro, come è nato il progetto e parlaci anche poi più in generale di Filetti. Praticamente è questo, alla fine diciamo, io insieme a Ivan Talarico, Claudio Morici, Davide Grillo, Marco Andreoli, decidiamo a un certo punto di metterci insieme, cioè di creare una sorta di salotto intellettuale, possiamo dire così, di contesto artistico per poter portare in scena le nostre cose e soprattutto per poterci confrontare. Noi abbiamo cominciato a leggerci a vicenda i nostri testi, lo facevamo a casa, abbiamo detto perché non cominciamo a farlo dal vivo, live? E abbiamo inventato questo show che va in scena una volta al mese al Nuovo Cinema Palazzo, si chiama appunto Sgombro. Da lì io, insieme appunto a Ivan e Claudio, abbiamo cominciato a chiamare tutte le persone che noi stimiamo, appunto tra cui Nano Egidio, Gioia Salvatori, Cecilia D'Amico, Daniele Fabbri. Insomma, e quindi abbiamo cercato di portare in scena quello che è per noi un'idea del teatro, ma soprattutto autorale, ecco, siamo tutti autori che scrivono. Da lì, successivamente, abbiamo deciso di creare una piccola rassegna di tre spettacoli, per caso un concerto, un reading e uno spettacolo. Il concerto l'ha fatto Ivan Talarico il mese scorso, stavolta tocca a me, e la prossima volta ci sarà Claudio Morici con il suo reading. Senti, ci parli un po' più di quello che è il tuo, che sta diventando il tuo percorso autoriale, anche arrivando a questo EUOE. Diciamo che ecco, c'è stato un salto. Io lo ammetto, probabilmente l'incontro con un mezzo diverso che è quello cinematografico ha cambiato un po' la mia percezione anche attorale, nel senso che lascio spazio anche un po' all'interpretazione che avevo messo un pochino da parte. Resta il gioco scenico. Però stavolta c'è spazio anche un po' diamo un po' di spazio un pochino anche all'anima, ecco. Quindi per questo parlavo di due Sì. diverse nature che in qualche modo cercano di convivere. E in questo credo che il cinema in qualche modo mi abbia dato una nuova spinta, ecco, una nuova linfa. E quindi adesso c'è questo esperimento e vediamo che cosa succede. Sì. Volevo chiederti anche questa stagione, oltre a impegnarti in questo nuovo lavoro, dove ti vedremo in scena prossimamente? Allora, adesso qui al Vascello, poi successivamente questo spettacolo lo porterò al Teatro del Lido di Ostia e in Puglia a Bari. Poi vedremo, perché adesso è tutto in una fase di studio, insomma, c'è 369 gradi che mi sta dando una mano dal punto di vista. vista della promozione della distribuzione, quindi adesso cercheremo di fare quella cosa che si fa sempre, insomma, provare a vendere lo spettacolo e convincere i teatri a portarlo in scena. Ci lasci tutti i riferimenti web, Daniele? Assolutamente sì. Allora, c'è il sito che è www.danieleparisi.org e poi c'è la pagina Facebook dove appunto io quotidianamente posto delle informazioni sullo spettacolo. E appunto, ripeto, 25 febbraio, domenica alle ore 21 al Teatro Vascello. Benissimo. Daniele, hai detto tutto tu. Un abbraccio, un in bocca al lupo e ci si vede a teatro. Evviva il lupo! Ciao! Ciao!